Ad alta voce. Chiara Guidi legge Memorie del sottosuolo di Fyodor Dostoevskij. Traduzione di Alfredo Polledro. Sedicesima puntata. E smettila, Lisa. Smettila, che cosa c'entrano i libri? Quando anch'io ho un senso di schifo, pur essendo un estraneo. E poi, non sono un estraneo, ora tutto questo mi si è svegliato nell'anima. Possibile che tu stessa non provi schifo qui? No, si vede che l'abitudine vuol dire molto. Lo sa il diavolo che cosa può fare dell'uomo l'abitudine, ma possibile che tu pensi sul serio che non invecchierai mai, che sarai eternamente bella e che qui ti terranno per tutta l'eternità. Non parlo poi del fatto che anche qui è un luridume. Ma del resto, ecco che cosa posso dirti di questo, della tua esistenza odierna. Tu ora, magari, sei giovane, graziosa, bella, hai un'anima, un sentimento. Ma lo sai che non appena mi sono riscosso, poco fa, ho subito provato schifo di essere qui con te. Infatti, solamente da ubriachi si può capitare qui. Ma se tu fossi in un altro posto, se tu vivessi come vive la brava gente, io forse, non è che ti farei la corte, ma mi innamorerei addirittura di te. Sarei lieto di un tuo sguardo, non già di una parola. Ti farei da sentinella al portone. Mi metterei in ginocchio davanti a te. Ti considererei come la mia fidanzata e lo stimerei un onore. Non oserei pensare nulla d'impuro sul tuo conto. Mentre qui... qui so che basta un mio fischio perché tu, volere o no, mi venga dietro e non sarei più io a seguire la tua volontà, ma tu a seguire la mia. Se l'ultimo dei contadini va a fare il bracciante, non asservisce certo tutta la sua persona e poi sa che il suo tempo finisce. Ma il tuo tempo, Lisa, dove finisce? Pensa un po' che cosa abbandoni qui, che cosa asservisci. L'anima che non è tua. La servisci insieme col corpo. Il tuo amore lo abbandoni al ludibrio di ogni ubriacone. L'amore, ma è tutto. È il gioiello, il tesoro di ogni fanciulla all'amore. Per meritarsi questo amore, c'è chi è pronto a rischiare l'anima, ad andare alla morte. Ma che valore si dà ora al tuo amore? Tu sei stata tutta comprata, tutta intera, e perché qui dovresti cercare l'amore, anche quando senza amore tutto... è possibile. Ma un'offesa più forte per una fanciulla non esiste, capisci? Ecco, sentito che vi vogliono distrarre, voi, altre sciocche, che vi permettono di avere degli amanti qui. Ma questo non è che un trastullo, non è che un inganno, non è che un ridere di voi, e voi ci credete. Ti ama forse davvero un amante? Non credo. Come può amarti se sa che da un momento all'altro c'è caso che ti chiamino, allontanandoti da lui? Allora è un porcaccione. Ti rispetta almeno un tantino? Che hai tu di comune con lui? Ride di te e per giunta ti deruba. Ecco tutto il suo amore. Meno male che non ti picchia. Ma forse anche ti picchia. Domandagli un po' che ti sposi, se ne hai uno. E lui ti riderà in faccia, a meno che non ti sputi addosso o ti picchi. E anche lui forse non vale più di 2 soldi bucati. E pensa un po'. Per che cosa ti sei rovinata la vita qui? Perché ti danno da bere il caffè? E ti fanno mangiare in abbondanza? Perché? Ma come mai ti fanno mangiare? Perché? Un'altra che fosse onesta non lo manderebbe giù un boccone così, perché saprebbe come mai la farebbero mangiare. Qui sei in debito. E sarai sempre in debito, e sarai in debito sino alla fine, proprio fino a quando i visitatori non cominceranno a sdegnarti. E questo verrà presto, non fidarti della tua giovinezza. Qui tutto andrà di galoppo, e ti cacceranno fuori, e non si limiteranno a scacciarti, ma molto tempo prima si metteranno da principio a cercare pretesti, si metteranno a rimproverarti. Si metteranno a ingiuriarti, come se non fossi tu ad averle sacrificato la tua salute, ad aver invano rovinato per lei la tua giovinezza e la tua anima, ma come se fossi tu invece ad averla rovinata, ridotta all'elemosina, derubata, e non aspettarti appoggio. Le altre tue amiche si scaglieranno anch'esse contro di te per ingraziarsi lei. Perché qui tutte sono in schiavitù e hanno perduto da un pezzo ogni coscienza e compassione. Sono diventate vili. E sulla terra non c'è niente che sia più schifoso, più vile, più offensivo di queste ingiurie. E tutto? Ci rimetterai tutto, incondizionatamente, la salute, la giovinezza, la bellezza, la speranza, e a 22 anni avrai l'aspetto di una donna di 35. E meno male se non sarai malata. Prega Dio che sia così. Perché tu ora magari pensi che non hai da lavorare, che non fai niente. Ma un lavoro che sia più pesante e più da galera al mondo non c'è. E non c'è mai stato. Il cuore soltanto sembra che dovrebbe andare tutto in lacrime. E neanche una parola oserai dire, neanche una mezza parola, quando ti cacceranno da qui. Andrai via come tu fossi colpevole. Passerai a un altro posto, poi a un terzo, poi ancora altrove, e arriverai finalmente alla via Sennaia. E là poi cominceranno a picchiarti di continuo. È la cortesia che usa lì. Lì un visitatore non sa nemmeno fare una carezza, se non dopo aver picchiato. Tu non credi che le cose siano così ripugnanti, vero? Vacci, guarda. Guarda un giorno o l'altro. C'è caso che tu veda coi tuoi occhi laggiù. Laggiù una volta ne vidi una a Capodanno, vicino alla porta. L'avevano scacciata per derisione i suoi, perché si gelasse un pochino. Dato che urlava troppo e le avevano chiuso la porta dietro. Alle 9 del mattino era già interamente ubriaca, spettinata, seminuda, tutta pesta. Era bianca, di belletto, e aveva gli occhi pieni di lividi, lividi neri. Dal naso e dai denti le scorreva giù il sangue. Era un vetturino che l'aveva acconciata in quel modo poco prima. Era seduta su una scaletta di pietra, tenendo fra le mani un pesce salato. Urlava. Tirava fuori non so che lamentele sulla sua sorte, e intanto col pesce picchiava sugli scalini, picchiava, e vicino all'entrata si erano affollati dei vetturini e dei soldati ubriachi, e la stuzzicavano, e lei picchiava, picchiava. Non credi che anche tu sarai come quella? Anch'io non ci vorrei credere, ma che ne sai tu? Forse 10, 8 anni fa, quella lì, quella del pesce salato, era arrivata qua, chissà di dove, fresca come un cherubino, innocente, pura. Non conosceva il male. Arrossiva ogni parola. Forse era proprio come te. Orgogliosa, permalosa, diversa dalle altre. Aveva l'aria di una regina. E sapeva anche lei che una piena felicità attendeva a colui che l'avesse amata e che lei avesse amato. Vedi com'è finita la cosa? Ed è proprio nel momento che picchiava con quel pesce contro gli scalini sporchi, ubriaca e spettinata, se in quel momento le fossero tornati alla memoria tutti i suoi puri anni d'una volta, trascorsi nella casa paterna, quando andava ancora a scuola e il figlio del vicino le faceva la posta sulla via, l'assicurava che l'avrebbe amata tutta la vita, che le avrebbe affidato il suo destino e quando avevano deciso insieme di amarsi eternamente e di sposarsi non appena fossero stati grandi. No. No, Lisa, felice, felice te. Felice te se morirai tisica al più presto là da qualche parte in un angolo, in una cantina come quella di stamane. All'ospedale. All'ospedale, dici tu, bene, ti ci porteranno. Sì. Ma se tu servissi ancora alla padrona? La tisi è una malattia fatta così. Non è una febbre violenta. Qui una persona fino all'ultimo momento spera e dice di star bene, si consola da sé e questo alla padrona fa comodo. Non ti preoccupare, è così, l'anima vuol dire che l'hai venduta e per di più devi dei quattrini, sicché non oserai neanche aprir bocca e quando morirai tutti ti abbandoneranno e tutti ti volteranno le spalle. Infatti, che cosa ci sarà da prenderti, allora? Ti rinfaceranno ancora che occupi posto per niente, che non muori in fretta. Non riuscirai a farti dar da bere. Te ne daranno, ma ingiuriandoti. Quando creperai, vigliacca, diranno. Non lasci dormire con i tuoi gemiti, i visitatori si disgustano. Questa Lisa è verità. Ho sorpreso io stesso delle parole come queste. Ti ficcheranno agonizzante nell'angolo più puzzolente della cantina, nel buio, nell'umidità. Che cosa penserai allora coricata lì da solo? Tu morirai e ti comporranno alla svelta con mano estranea, brontolando con impazienza. Nessuno ti benedirà. Nessuno avrà un sospiro di rimpianto per te. L'unico pensiero sarà di liberarsi in fretta di te. Compreranno una cassa. Ti trasporteranno fuori come oggi trasportavano quella poveretta. Andranno a ricordarti alla bettola. Nella fossa c'è fango, sudiciume, neve bagnata. Non è certo per te che si hanno da far cerimonie. Lasciala un po' andare, Vaniuccia. Beh, che sorte, anche qui se n'è andata a gambe per aria, era di quelle. Accorcia le corde, briccone. Va bene anche così? Va bene, su un fianco, era anche lei un essere umano o no? Su, va bene, ricopri. E non vorranno mica insolentirsi molto per te. Ricopriranno alla svelta la fossa con la turchiniccia, terra bagnata, e se ne andranno alla bettola. E così è finito il tuo ricordo sulla terra. Sulla tomba delle altre ci vengono i figli, i padri, i mariti, ma tu non hai né una lacrima, né un sospiro, né un ricordo e nessuno, nessuno mai in tutto il mondo verrà a trovarti. Il tuo nome sparirà dalla faccia della terra, come se tu non fossi mai esistita e non fossi mai nata per niente. Melma, e pantano, e là di notte bussa quanto vuoi, quando si alzano i morti contro il coperchio della bara. Lasciatemi venire, brava gente, a stare un poco al mondo. Ho vissuto e la vita non l'ho conosciuta, la mia vita si è consumata. Se la son bevuta la bettola in via Sennaia, lasciatemi venire, brava gente, a stare ancora una volta un poco. E io mi ingolfai nel pathos fino al punto che anche a me stava venendo uno spasimo alla gola. E a un tratto mi fermai. Mi sollevai spaventato. E piegando timorosamente il capo, col cuore martellante, cominciai a tendere l'orecchio. E c'era di che turbarsi. Già da un pezzo presentivo che le avevo sconvolto tutta l'anima e spezzato il cuore. E quanto più me ne persuadevo, tanto più desideravo raggiungere lo scopo rapidamente e con la maggior forza possibile. Il gioco mi attirava, il gioco. Del resto, non solo il gioco. Sapevo di parlare in modo stentato, artificioso, perfino libresco. In una parola, non sapevo parlare altrimenti che come un libro. Ma questo non mi turbava. Infatti, sapevo, presentivo che sarei stato capito e che quello stesso tono libresco poteva giovare ancor meglio alla faccenda. Ma ora, ottenuto l'effetto, tutta un tratto, ebbi paura. No, no, mai, mai ancora ero stato testimone di una tale disperazione. Lei giaceva a bocconi, affondando con forza il viso nel guanciale e tenendolo stretto con tutte e due le mani. Il petto le stava scoppiando. Tutto il suo giovane corpo sussultava come avesse le convulsioni. I singhiozzi, compressi nel petto, lo serravano, lo laceravano e tutto a un tratto rompevano fuori in gemiti e grida. Allora lei aderiva con più forza ancora al guanciale. Non voleva che nessuno lì, neppure un'anima, sapesse del suo strazio e delle sue lacrime. Mordeva il guanciale, si morsicò a sangue la mano. Io lo vidi più tardi, oppure aggrappandosi con le dita alle proprie trecce sciolte, si irrigidiva addirittura nello sforzo, trattenendo il respiro e serrando i denti. Io avevo già cominciato a dirle qualcosa, la pregavo di calmarsi, ma sentii che non ne avevo il coraggio e mi ho trattato io stesso. Tutto preso da non so che brividi quasi atterrito, mi precipitai a tastoni a prepararmi in qualche maniera alla svelta per andarmene. Era buio e, per quanto mi sforzassi, non potevo finire presto. A un tratto sentì al tasto una scatola di fiammiferi e un candeliere con un'intera candela intatta. Non appena la luce rischiarò la stanza, Lisa balzò su di colpo. Si sedette e con un viso alterato, con un sorriso semifolle, mi guardò insensatamente. Io mi sedetti accanto a lei e le presi le mani. Lei si riebbe, si gettò verso di me, mi voleva già abbracciare, ma non osò e chinò silenziosamente la testa dinanzi a me. Lisa, Lisa, amica mia, ho fatto male e perdonami. Cominciai, ma lei strinse con tanta forza le mie mani nelle sue dita che intuì di non parlare a tono e smisi. Ecco il mio indirizzo, Lisa, vieni a trovarmi. Verrò. Sussurrò lei indecisa ancor sempre senza levare il capo. «E ora me ne vado, Lisa. Addio, arrivederci!» Mi alzai, si alzò anche lei e a un tratto arrossì tutta. Sussultò, afferrò un fazzoletto che giaceva su una sedia e se lo gettò sulle spalle fin proprio al mento. Fatto questo, sorrise di nuovo dolorosamente. Arrossì e mi guardò in modo strano. Provai un senso di pena. io mi affrettavo ad andarmene, a sparire. Aspettate, disse lei a un tratto già nell'entrata e proprio accanto alla porta. Aspettate, fermandomi col mettermi una mano sul cappotto. Posò in furia la candela e corse via. Aspettate, evidentemente si era ricordata di qualcosa e voleva portarmelo a vedere. Correndo via era arrossita tutta. I suoi occhi brillavano, sulle labbra era apparso un sorriso. Che cosa poteva essere? Fui costretto ad aspettarla. Ella tornò di lì a un minuto con uno sguardo che pareva chiedere perdono di qualcosa. In genere, quello non era più il viso, non era più lo sguardo di poco prima, cupo, diffidente, ostinato. Il suo sguardo ora era supplice, dolce, fiducioso, carezzevole. Timido. I bambini guardano così quelli a cui vogliono molto bene e a cui chiedono qualcosa. Ella aveva gli occhi bruno chiari, dei bellissimi occhi vivaci, che sapevano riflettere in sé l'amore e il cupo odio. Chiara Guidi ha letto Memorie del sottosuolo di Fiodor Dostoevskij, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it. Per riascoltare il programma, radio3pod.rai.it.